ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Due senatori del Movimento 5 Stelle positivi al Covid, ora tamponi per tutto il gruppo e per il sottosegretario Zampa. Dopo il casi al Genoa, il campionato di Serie A va sospeso. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è arrivato in Italia all'incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dibattito presidenziale infuocato su Fox News tra Donald Trump e Joe Biden, scambi di accuse, non sei intelligente e tu sei un bugiardo. Tragedia a Napoli, un bimbo di 11 anni si lancia dal balcone, il sospetto degli investigatori è che stesse seguendo una sfida estrema in chat. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Parleremo tra poco della visita del segretario di Stato americano Mike Pompeo in Italia, l'incontro con il presidente del Consiglio Conte e anche abbondantemente del primo faccia a faccia televisivo tra i due candidati Joe Biden e Donald Trump alle presidenziali americane. Però cominciamo con la pagina sulle notizie relative al coronavirus in Italia, perché intanto è stata una dichiarazione questa mattina del sottosegretario alla salute Sandra Zampa, che ha detto il protocollo parla chiaro, in casi come questi il campionato di Serie A va sospeso. Poi c'è stata una precisazione, a decidere, ha detto Zampa, saranno la Lega e le società, ma insomma il punto resta che per il campionato di calcio la questione si mette in salita. Positivi anche due senatori del Movimento 5 Stelle, a questo punto tutto il gruppo parlamentare sarà sottoposto a tampone e si fermeranno oggi i lavori del Senato. Il contagio da coronavirus in Italia si sposta sempre più al centro-sud, in particolare in Campania, che ieri ha avuto ancora il primato dei casi, 286, e dove il governatore De Luca ha imposto misure ancor più restrittive per contenere contagi e movida. Se si prendono però i dati degli attualmente positivi in base ai 100.000 abitanti, si scopre che è la Sardegna in questo momento la regione più colpita, con 129 casi di Covid ogni 100.000 abitanti, seguita dal Lazio, che ne conta 120. A confermare questo trend è anche l'ultimo report dell'Osservatorio sulla Salute della Cattolica di Roma, che cita Sardegna, Campania, Lazio e Sicilia come le regioni che stanno sperimentando un andamento preoccupante dei contagi. Intanto è allarme tra i parlamentari grillini dopo che due senatori 5 Stelle sono risultati positivi al Covid. Tutti i senatori del movimento stanno sottoponendosi a tampone, fermi per oggi in via precauzionale i lavori a Palazzo Madama. Sdoganato dal Ministero della Salute l'uso dei test rapidi a scuola, buone notizie arrivano dal vaccino dell'azienda americana Moderna giunto alla fase 3. A quanto è stato pubblicato, produce una buona risposta immunitaria negli anziani e gli effetti collaterali sono prevalentemente lievi o moderati. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso, come dicevamo, la visita del segretario di Stato americano Mike Pompeo in Italia è arrivato questa mattina a Roma. C'è stato già l'incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo, in visita a Roma tra oggi e domani, continua a suggerire al Vaticano la linea da tenere verso la Cina. Ci aspettiamo più coraggio, ha detto stamattina, nel difendere le comunità cristiane. Due settimane fa Pompeo aveva invitato il Vaticano a non rinnovare l'accordo con la Cina sulla nomina dei vescovi. Stamattina il segretario vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, ha confermato con i giornalisti l'irritazione del Vaticano e che non è casuale la scelta di Papa Francesco di non incontrare Pompeo. Si è intanto concluso da poco l'incontro di Pompeo con il premier Giuseppe Conte e in corso quello con il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Al centro dei colloqui il tema della supremazia cinese sul 5G che l'amministrazione Trump vorrebbe contenere vietando l'acquisto di tecnologia Huawei come fatto dal Regno Unito. Il governo italiano condivide i rischi ma difenderà la sua recente normativa ritenuta all'avanguardia in materia di tutela dei dati e sicurezza informatica. Si è parlato anche di Covid, degli spiragli di pace in Libia, della crisi tra Turchia e Unione Europea sul controllo delle risorse nel Mediterraneo orientale. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E proprio oggi si riunisce anche il Consiglio dei Ministri, c'è attesa per il varo della manovra economica da 40 miliardi. L'intesa c'è. Al termine del vertice di ieri sera con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la maggioranza ha infatti trovato un punto di equilibrio sulla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Il prossimo anno la manovra di bilancio raggiungerà i 40 miliardi, costruita con margini di deficit da 22 miliardi e anticipo fondi del recovery plan. Così, stima il Ministero dell'Economia, il prodotto interno lordo l'anno prossimo rimbalzerà al più 6% dopo il meno 9 del 2020. Il deficit si attesterà al 10,8% quest'anno e entro il 2023 tornerà al 3%. Anche il debito, previsto al 158% nell'anno in corso, imboccherà la discesa dal 2021 e per tutto il triennio. Fissati gli obiettivi, il governo dovrà poi scrivere la manovra e fra i programmi c'è la riforma fiscale. Questa sera intanto il Consiglio dei Ministri inizierà l'esame della nota di aggiornamento al DEF, che sarà approvata domenica. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Prima di andare alle notizie dall'estero, come detto, il faccia a faccia televisivo tra Biden e Trump, ma anche gli aggiornamenti sul conflitto tra Armenia e Azerbaigian, restiamo in Italia con la cronaca e la tragica notizia della morte per suicidio di un bambino di 11 anni a Napoli. Il sospetto degli inquirenti è che stesse seguendo una sfida estrema in chat, perché le sue ultime parole lasciate in un biglietto alla mamma parlano proprio di questo. C'è il terribile sospetto che a determinare la morte di un ragazzino di 11 anni a Napoli sia stato un gioco online, un challenge dell'orrore del tipo Blue Whale, un gioco che si svolge totalmente nel web e che comprende atti di autolesionismo, anche il suicidio. Secondo quanto è emerso finora, sembra che il ragazzo residente con la famiglia nel quartiere Chiaia, a Mergellina, abbia lasciato un biglietto alla madre prima di lanciarsi nel vuoto intorno alla mezzanotte. Nel biglietto chiede scusa e dice di aver paura dell'uomo nero. La procura di Napoli ha aperto un'inchiesta e con la polizia indaga, ipotizzando il reato di istigazione al suicidio. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno. Cercheremo di capire ancora meglio questa notizia, se le ipotesi degli investigatori possono in qualche modo essere confermate e di che tipo di sfida estrema in chat si potesse trattare. Adesso, come detto, il faccia a faccia tra Biden e Trump. Sei un clown e tu non hai niente di intelligente. Sono stati questi alcuni degli scambi infuocati di battute tra i due candidati alle presidenziali, che hanno fatto un faccia a faccia in onda su Fox News, che avrebbe dovuto servire agli americani per farsi un'idea su chi votare, ma insomma, stando alle prime analisi, sembra che sia stato piuttosto infuocato ma anche confuso. Ne parleremo ancora con Giulia Crivelli, Effetto Mondo, nella seconda parte di Effetto Giorno. Boris Johnson non si ferma, intanto la sua maggioranza fa approvare in via definitiva alla Camera dei Comuni il contestato progetto di legge che mira a rimettere in discussione, attraverso una norma nazionale, l'Internal Market Bill, alcuni degli impegni presi con l'Unione Europea nell'accordo di recesso già firmato con Bruxelles per il dopo Brexit. La norma, che a questo punto potrebbe subire il ricorso da parte dell'Europa, riguarda lo status commerciale doganale dell'Irlanda del Nord. Ancora tensioni e scontri armati tra Armenia e Azerbaigian. L'Armenia sta valutando la possibilità di riconoscere l'indipendenza del Nagorno-Karabakh. E quanto ha fatto sapere il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, questa opzione, ha spiegato, è all'ordine del giorno. C'è anche la possibilità di firmare un accordo di cooperazione strategica, un trattato di cooperazione nella sfera della sicurezza e della difesa. Fino ad oggi l'Armenia non aveva mai riconosciuto l'indipendenza dell'autoproclamata repubblica ed è in corso dagli anni 90 il conflitto con l'Azerbaigian, ripreso 4 giorni fa con diverse vittime e feriti. La Turchia, per bocca del ministro degli esteri, si dice pronta a sostenere Baku, mentre il Consiglio di sicurezza dell'ONU sostiene l'appello del segretario generale Guterres alle forze armene ed azere di fermare immediatamente i combattimenti, ridurre le tensioni e tornare a negoziati significativi. I 15 membri dell'organismo hanno firmato il documento all'unanimità durante una riunione di emergenza sul conflitto in corso. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo ai dati economici di giornata, perché l'inflazione è negativa per il quinto mese consecutivo secondo l'Istat e ripresa invece il cosiddetto carrello della spesa. Inflazione negativa per il quinto mese consecutivo a settembre, secondo le stime preliminari dell'Istat. Nel mese, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi registra una diminuzione dello 0,5% su base annua, come ad agosto. Su base mensile, il calo dello 0,6%. L'inflazione negativa, spiega l'Istat, continua ad essere dovuta prevalentemente alle flessioni di alcuni settori, come spiega Federico Polidoro, dirigente del servizio Sistema Integrato sulle condizioni economiche e i prezzi al consumo. Assistiamo a un calo generalizzato dei prezzi che colpisce tutti quanti i settori, che da una parte i beni energetici in forte flessione, che sono determinanti per questa variazione negativa, dall'altra invece beni alimentari per la cura della casa della persona, quindi beni di largo consumo, che invece sono addirittura in crescita dell'1,2% e accelerano rispetto ad agosto, quando era più 0,9%. Certo, il quadro dell'inflazione rimane debole anche per queste componenti del paniere, però ecco, non c'è un calo generalizzato dei prezzi al consumo, nonostante l'indice generale dica che la flessione di mezzo punto percentuale, proprio perché a determinare soprattutto questo calo sono i beni energetici. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Abbiamo aperto con le notizie relative ai casi di Covid e anche alla dichiarazione del sottosegretario Zampa sulla possibilità di interrompere il campionato. Poi c'è stata una precisazione. Carlo Genta, che si Ciao, fa Alessio. Con questo campionato di Serie A? Beh, alle 15 c'è il Consiglio straordinario della Lega che deciderà cosa fare, come normare questo momento, che è in fondo quello che ha detto il sottosegretario Zampa nel correggere il tiro a una dichiarazione che mi sembrava francamente una fuga in avanti politica. Poi ha detto: no, non volevo dire che si deve sospendere il campionato, soltanto che i giocatori positivi non possono giocare, ma questa mi sembra quasi una banalità previsto dal protocollo e dal buon senso. Quindi ancora aspettiamo notizie da Napoli per vedere, lo sapremo credo nel pomeriggio, nel l'esito pomeriggio, l'esito dei tamponi e poi questa decisione che verrà presa dalla Lega Calcio. Grazie Carlo Genta. 13:12, noi facciamo una piccola pausa naturalmente dopo la sintesi principale di notizie di oggi, torneremo sul caso di Napoli, perché secondo gli investigatori potrebbe esserci una sfida estrema portata da un personaggio nuovo che si chiama Jonathan Galindo dietro alla morte dell'11enne lanciatosi dal balcone a Napoli. Cercheremo di capire di che si tratta. 349-238-6666 per i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Due senatori del Movimento 5 Stelle sono risultati positivi al Covid, ora tamponi per tutto il gruppo. Il Senato intanto sospende ogni attività. Dibattito presidenziale infuocato su Fox News tra Trump e Biden. Scambi di accuse. Non sei intelligente. La replica: tu sei un bugiardo. Tragedia a Napoli, un bimbo di 11 anni si lancia dal balcone. Il sospetto degli investigatori è che stesse seguendo una sfida estrema in chat. Scandalo in Vaticano, tra operazioni finanziarie spericolate e fondi occultati, spuntano nuove case acquistate a Londra, ne parliamo tra poco. Queste erano le principali notizie di oggi e tra queste c'è il caso a Napoli di un suicidio di un bambino di soli 11 anni, una vera e propria tragedia di fronte alla quale la prima tentazione sarebbe quella di sospendere ogni commento, ogni giudizio, se non fosse che gli investigatori in realtà stanno seguendo una pista di cui adesso vi parleremo. È con noi Ivano Zoppi, segretario generale della Fondazione Carolina, la Onlus fondata dal papà di Carolina Picchio, è stata la prima vittima riconosciuta in Italia del cyberbullismo. Benvenuto Zoppi. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, a quanto si apprende, il biglietto, il messaggio lasciato da questo ragazzino alla mamma conteneva questa frase: mamma, papà, vi amo, ma devo seguire l'uomo col cappuccio. Un bambino che si è lanciato dal balcone di casa sua, soli 11 anni, all'interno di una famiglia che sembrava una famiglia con tutte le carte in regola, persone conosciute, professionisti stimati, genitori addirittura impegnati nel sociale, il bambino un bambino normale e socievole. L'ipotesi però al vaglio della polizia, che sta già guardando nei computer e nei device del ragazzino, compreso il telefonino, è che questo bambino fosse finito nel vortice di un gioco chiamato Jonathan Galindo. Si tratta di un personaggio, una specie di variante nuova di quello di cui abbiamo parlato altre volte, il Blue Whale, cioè sfide estreme lanciate in chat su Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, e ognuna di queste va bene anche WhatsApp, purtroppo. Una gara fatta di step crescenti che porta all'autolesionismo. La prima cosa che le chiedo, Zoppi, dalle notizie scarne che si hanno su questo caso, potrebbe essere questo l'ambito, il mondo in cui questo tragico fatto è avvenuto, una causa o una concausa di questo suicidio? Ovviamente lasciamo agli investigatori fare il loro lavoro e determinare quali sono le effettive cause. Certamente c'è questo sospetto, ed è un sospetto che ci riporta drammaticamente a guardare in faccia il mondo delle challenge, un mondo dove tanti ragazzi si perdono perché hanno bisogno di essere confermati, di avere un like o di avere una conferma da parte di qualcuno che anche loro sono al mondo, o forse un grido disperato di aiuto, di richiesta di sostegno, di supporto, nel quale i ragazzi purtroppo, senza alcun accompagnamento, senza alcun filtro, si trovano coinvolti. Ecco, conosciamo tante di challenge e queste sicuramente sono tra le più pericolose. Ecco, ma cosa sappiamo di certo su questo? Perché ci sono state inchieste giornalistiche, in Italia ne avevano parlato le Iene, i primi a parlarne in Russia fu addirittura la giornalista investigativa russa Anna Politkovskaya, poi uccisa tra l'altro nel 2006, lei stessa. Però alcune di queste inchieste sono state smentite perché, e anche duramente criticate, perché non si riusciva a fare una dimostrazione diretta di un rapporto tra le morti e i possibili avvenimenti in chat, insomma l'istigazione avvenuta via chat. Ci sono dei procedimenti giudiziari in Italia, c'è una 23enne condannata, rinviata a giudizio a Palermo per istigazione, atti persecutori, stalking, perché avrebbe istigato una 12enne a farsi del male. Cosa sappiamo di certo su questa realtà, Zoppi? Sappiamo che è un mondo molto nascosto e molto difficile da intercettare. Sappiamo che tante indagini sono in corso, che tanti episodi sono stati ricollocati certamente a situazioni di questo tipo. È difficile da dimostrare, è difficile, beh, parlavo prima della Blue Whale, non ci sono così tante evidenze che dicono che c'è, per quanto qualcuno abbia seguito questa challenge, siano strettamente collegate agli episodi che sono accaduti. Quindi è un mondo che dobbiamo conoscere e scoprire, che è un mondo sommerso nel quale tantissimi ragazzi sono coinvolti. Adesso ce n'è una che si chiama Benadryl, ci sono challenge che ti spingono a mangiare farmaci senza alcun tipo di controllo, challenge che ti spingono a bere fino a stordirti. È un mondo davvero nascosto, è un mondo dentro il quale i nostri ragazzi abitano e davvero non sono tutelati o accompagnati. Due cose ancora le voglio chiedere, Zoppi, prima di salutarci. In che modo i genitori possono cercare di capire quando si sta facendo strada nel loro figlio un meccanismo autolesionistico di questo genere? Poi l'altra però è questa, sui responsabili, no, di queste chat. Si tratta di persone realmente malvagie, consapevoli di quello che fanno, o può trattarsi anche magari di adolescenti, giovani, comunque un po' inconsapevoli di forzare i comportamenti dei più piccoli verso comportamenti, diciamo, autolesionistici? Non so se la differenza sono riuscito a spiegarmi. Assolutamente sì, parto da qui e dico sì, ci sono anche dei ragazzi che totalmente inconsapevoli di quello che avviene nel mondo virtuale spingono magari qualcuno a coinvolgersi in queste chat. Perché credo che di fronte a questo ci si possa ancora difendere. Se c'è una forma, diciamo, di bullismo estrema, forse qualcosa su cui si può ancora lavorare e trattare. Diverso è il caso di persone fondamentalmente malvagie che istigano questi comportamenti, non so per quale ragione. Assolutamente sì, e qui il richiamo fortissimo è duplice. Da un lato ai giganti del web, dovete intervenire per tutelare il benessere dei minori online, con più controlli, con più formazione, con più accompagnamento a quelle che sono le realtà che sul territorio si occupano anche di questi temi. E per arrivare alla domanda precedente, sì. Dobbiamo supportare i genitori, la comunità educante, cioè tutti quegli adulti che hanno responsabilità educative nei confronti dei ragazzi, hanno bisogno di formazione, di conoscere e di accompagnare i ragazzi, che sia la famiglia, che siano i docenti, che sia gli allenatori, che siano i catechisti, devono avere informazioni utili per poter prevenire e fronteggiare questo tipo di fenomeni. Magari dare un'occhiata anche una volta in più al cellulare o al computer del figlio, cose di questo genere. Assolutamente sì, stargli vicino, che non significa controllare ma accompagnare, dare delle regole che devono essere da un lato fatte rispettare, dall'altro rispettate. Anche noi adulti forse dobbiamo usare in maniera molto più intelligente questo mondo dei social. Grazie Ivano Zoppi della Fondazione Carolina. Allora è con noi Paolo Rodari, giornalista vaticanista di Repubblica. Benvenuto Paolo. Grazie. Ecco. Allora, per parlare dello scandalo finanziario che sta agitando il Vaticano, leggo alcuni titoli dei giornali, così giusto per inquadrare la questione. Allora, Libero scrive: sacco del Vaticano, prosciugato il conto di Bergoglio. Affari Italiani poco fa online titolava: soldi vaticani saccheggiati 454 milioni. Per il Fatto Quotidiano c'è il Becciugate, nuove case a Londra, soldi svizzeri. Parlano anche di uno scoop del Financial Times sul sistema di gestione degli investimenti in Vaticano. Ci sono una serie di operazioni immobiliari e fondi che vanno e vengono, provvigioni per consulenti e faccendieri. Paolo, qual è l'origine di questa, il centro di questa inchiesta? Ah, il centro è appunto l'acquisizione, la notizia è uscita la scorsa primavera, di un immobile a Londra da parte della Segreteria di Stato attraverso un fondo che il sostituto aveva in mano, quindi il numero due della Segreteria di Stato, un fondo in cui confluiscono vari soldi, fra cui anche parte dell'opera di San Pietro. Questo fondo il Vaticano doveva farlo fruttare, ma l'acquisizione di questo immobile pare, adesso gli inquirenti stanno lavorando, quindi ancora certezze non si hanno, pare che nel tentativo di far sfruttare questi soldi, quindi nell'acquisizione di questi immobili e di altri immobili a Londra, siano stati commessi dei crimini. Crimini di che tipo? Cioè sottrazioni di denaro, per esempio, a vantaggio di alcuni faccendieri, di alcuni consulenti, abbiamo letto vari nomi, c'è anche il ruolo del cardinale Becciu. Sì, diciamo, formalmente Becciu non è ancora andato sotto processo, quindi anche se ovviamente c'è un'inchiesta su di lui in Vaticano, ma formalmente non è ancora indagato. Quando il Papa ha accettato la sua rinuncia qualche giorno fa, sì, diciamo il crimine di cui era accusato era peculato, però diciamo si era parlato allora di un'altra vicenda, cioè del fatto che aveva dato dei soldi alla Caritas della sua diocesi, sì, sempre da quel fondo, ma non si parlava prettamente di Londra, ma probabilmente al di là di quello che era uscito e della motivazione con la quale il Papa gli ha chiesto di ritirarsi, al di là di quella il vero noccio è questo immobile di Londra con, diciamo, Becciu che era responsabile di altre 5 persone che già vennero dimesse a maggio scorso e che appunto hanno agito in modo illecito, però i dettagli non si sanno ancora, anche perché formalmente un processo non è iniziato. Ecco, in tutto questo Papa Francesco sembra essere una vittima. I giornali scrivono appunto che addirittura il suo conto corrente, che fa riferimento proprio a lui direttamente, sarebbe stato, usano questa parola, saccheggiato. È così? Il Papa è una vittima in tutto questo, secondo te? Sì, la ricostruzione, sì, anche che stai, sì, facendo? Sì, diciamo probabilmente sì, perché quel fondo era a disposizione totale del sostituto, che poteva usarne senza dare conto sostanzialmente a nessuno, tant'è che 2 giorni fa è uscita la notizia che il Papa ha deciso di togliere questo fondo alla Segreteria di Stato e di far convogliare tutti i soldi in un altro dicastero che è l'APSA, con la supervisione del Ministero della Segreteria per l'Economia. Quindi in qualche modo da tempo, cioè non solo con Becciu ma anche con i sostituti precedenti, quel fondo era a totale disposizione di questa figura, appunto, del numero 3 della Segreteria di Stato, che poteva usarlo per fini di carità o loro dicono anche per farlo fruttare senza dover rendere conto al Papa. Grazie Paolo Rodari, vaticanista di Repubblica, grazie per essere stato con noi. E va bene, 13 e 27 minuti, allora facciamo un break e torniamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666, ci sarà un'ampia pagina dedicata al faccia a faccia, il primo televisivo tra Donald Trump e Joe Biden. Sentiremo alcune voci, cercheremo di scandagliare un po' come è andata, cosa si sono detti, ve l'abbiamo già anticipato, soprattutto una serie di insulti e di accuse incrociate, un faccia a faccia sicuramente infuocato. 349-238-6666, a tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Si ferma il Senato dopo che due senatori del Movimento 5 Stelle sono risultati positivi al Covid. Stop al campionato, dice il sottosegretario Zampa dopo i casi al Genoa, poi precisa saranno Lega e società a decidere. Oggi il vertice. Il segretario di Stato americano Pompeo è arrivato in Italia in mattinata all'incontro col presidente del Consiglio Conte. Dibattito infuocato su Fox News tra Trump e Biden e scambi di accuse, non sei intelligente, tu sei un bugiardo. Tragedia a Napoli, un bimbo di 11 anni suicida, per gli investigatori stava seguendo una sfida estrema in chat. Minuti, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Tra poco, come detto, analizzeremo, scandaglieremo insieme a Giulia Crivelli il faccia a faccia tra Biden e Trump, che a quanto pare sta rendendo nervose anche le borse, perché è stato molto caotico. Prima però il punto di Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. Siamo tutti preda dell'ubriacatura di annunci sui 209 miliardi che arriveranno dall'Europa e tendiamo a sottovalutare lo stato dei conti pubblici. I fondi UE arriveranno ben oltre la prima metà del 2021, non va dimenticato. Ma nel frattempo che succede alle finanze pubbliche devastate dal Covid, che ha comportato un crollo del PIL, un aumento enorme di spese e un drastico taglio alle entrate fiscali? Nel 2021 ci saranno spese obbligate che oscillano tra gli 8 e i 10 miliardi, questo lo sappiamo già, e andranno finanziate prevedibilmente o con taglio o con un altro deficit che, non dimentichiamolo, gira intorno al 10%. L'Europa ci consentirà di anticipare circa 20 miliardi dei fondi del Recovery Fund per destinarli alle riforme che possano produrre impatto sulla crescita. L'unica strada sono gli investimenti. È l'unico modo per far ripartire il paese e, secondo la Banca d'Italia, dovrebbero raddoppiare nei prossimi 5 anni, e oggi sono poco più di 40 miliardi l'anno. C'è un'ombra su tutto questo. Il debito dell'Italia, di cui nessuno sembra più voler parlare, che veleggia intorno al 160% del PIL. Sono 43.000 euro a testa, non dimentichiamolo, e ogni manovra di bilancio non potrà non tenerne conto. E più lo si guarda e più sembra, per chi sta al tesoro, un difficile esercizio di conciliazione degli opposti. Alle 13.35 minuti diamo il buongiorno e lo ringrazio per essere con noi a Vittorino Andreoli, psichiatra, scrittore, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Andreoli. Abbiamo bisogno di lei per cercare di capire e anche assorbire la notizia del duplice omicidio di Lecce e della frase terribile detta dall'omicida: li ho uccisi perché erano troppo felici. Andreoli, queste sono notizie, sono cose che scorrono nella cronaca, ma che veramente dobbiamo cercare di farci conti con una frase del genere. Chi può dire una frase del genere? Ma il personaggio è l'invidia. L'invidia è un sentimento comune che certo può portare a tragedie drammatiche come questa. L'invidia è il desiderio che una persona ha di essere o di avere ciò che ha un altro. E quindi in qualche modo è come avesse un'idea fissa che lo porta o ad essere l'altro, o a possedere quell'oggetto, magari, può essere banale, ma quelle cose che l'altro ha. Questo crea uno sdoppiamento tra il proprio essere, il proprio io, che non viene quasi considerato, come se non fosse identificato, come se fosse nulla, e si guarda sempre a quello che non si ha e che invece ha l'altro. Questo determina un desiderio fortissimo che, finché appare realizzabile, allora in qualche modo porta all'azione, mantiene la speranza di ottenere la felicità che vede negli altri e non trova in se stesso. E quindi finché questo sembra possibile, porta a fare qualche cosa per imitare, per avere. Quando si percepisce che non è proprio più possibile, allora si finisce per odiare l'invidiato. Nasce la rabbia e, come lei sa, la rabbia è una violenza dentro di noi che quando esce può compiere azioni assurde, ma, come dico, che hanno una qualche ragione dentro i sentimenti, che è quello che è successo a Lecce. Quindi questo percorso di invidia che porta a questa rabbia, ed è un qualche cosa che tutto sommato, insomma, che la felicità altrui possa essere anche motivo di, così, di insoddisfazione, di insofferenza per molti di noi, è cosa nota. Che si possa arrivare all'omicidio però un po' colpisce. Che tipo di è una persona malata di mente, secondo lei? Una persona ragiona così? Ecco, vede, questo è importante, quello perché voglio difendere i miei matti, è una parola che io uso con molto affetto. I matti non fanno questo, i matti non, certamente possono provare invidia, ma non è l'invidia che rende la follia. Questo si tratta proprio di una personalità che non ha alcuna stima di sé e che si proietta tutto in un altro. E qui in una coppia che è felice, e quindi vede che la felicità è solo possibile se si è identificati con quell'altro. Vede, qui piuttosto, sa che cos'è patologico? È il concetto di felicità. La felicità è oggi è piacere agli altri, e lei guardi un po' nello strumento che abbiamo sempre in mano, insomma, è un mondo che o col dito in su mi piace o col dito in giù non mi piace. Il che vuol dire che essere felice vuol dire essere ammirati come lui ammira l'altro, avere i followers. È questo il concetto errato, mentre vede, bisognerebbe sostituire a questa felicità quella che è la gioia, cioè il provare soddisfazione se l'altro ha qualcosa che a te manca, perché quel qualcosa può anche aver riflesso positivo su di te, non puoi identificarti. Quindi qui non è follia, ma è un eccesso legato ad un sentimento che, diciamo, un po' di invidia ci può essere così transitoriamente, ma può essere uno stimolo per far di più. Ma qui è proprio un'invidia che vede o sono come lui, addirittura sono lui, oppure non è possibile vivere. Vede, quindi il termine felicità vuol dire piacere, in questo senso semplice, mi piace o non mi piace, sì. Come se tutto il mondo rientrasse in queste cose. Vede, poi la patologia, prego. No, volevo aggiungere questo, vede, l'altra patologia, perché spesso è anche, sa, in una cultura generale, L'altra patologia è la morte. Vede, oggi uccidere è un atto banale. E questo ragazzo uccide la sera. È questo che forse ci lascia basiti, no, Andreoli? Perché tutto il ragionamento che lei ha fatto è tragicamente, come dire, di una grande lucidità, però poi quando si arriva, questa rabbia arriva a sfociare nell'omicidio. Possibile che un ragazzo di 21 anni che aveva una vita apparentemente normale, lei dice non è un folle, non è un malato di mente, anzi tutt'altro, arrivasse a concepire un omicidio per un motivo come quello? Perché l'omicidio era stato pianificato, una cosa aberrante. È proprio qui mi creda, le sembrerà assurdo, ma oggi è un mondo che è confuso e sconvolto. Guardi, se dovessi proprio usare un paradosso, direi che è una patologia dentro la normalità. Lo so che non sto giocando con i termini, mi creda, ma è per dirle che molti nostri comportamenti oggi non sono legati alla follia, che è un processo mentale spesso legato a delle cose molto gravi. Qui è proprio ad una anche superficialità. Non vede, questi uccidono per esempio e si fanno scoprire due minuti dopo. Quindi non c'è nemmeno la consapevolezza del significato di che cosa voglia dire quell'atto. Però è tutto programmato, perché lui non accetta di non essere come quell'altro. Ed è qui che scatta la anomalia, che però non si può chiamare anomalia della follia, perché la follia ha delle altre vie. È un'altra cosa. Più serie e gravi attraverso cui si manifesta. Assolutamente. Io la ringrazio davvero, Vittorino Andreoli, grazie per essere stato con noi. Non c'è molto da aggiungere, era proprio questa invece una, come dire, un'esigenza che avevamo, di sentirci spiegare, raccontare, accompagnare nel fatto di, come dire, recepire questa informazione. Ho ucciso perché eravamo troppo felici e era necessario farlo probabilmente in questo modo. 13:43, andiamo sul traffico e poi torniamo insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo, e come anticipato torniamo sul faccia a faccia tra Biden e Trump. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.